Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 2 minuti primi e questa è la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va infatti va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, oggi è mercoledì appunto. Dunque, iniziamo appunto questa trasmissione, noi normalmente non iniziamo dai suicidi in carcere, che pure imperversano in questo... in questo periodo, perché crediamo che sia deprimente per chi ascolta, soprattutto per chi sta in carcere, ascoltare le notizie di altri compagni di cella o comunque detenuti come loro che si sono tolti la vita. Però c'è tutte le morti in carcere sono tremende, terribili, violenze inaudite, anzi è il punto più alto della violenza di Stato, l'assassinio di persone private della propria libertà. E quindi non c'è stato, le modifiche fatte, il sovraffollamento che è calato non ha fatto cessare questa tragedia. Questa volta però ne parliamo di questo detenuto che dicono si è impiccato nella casa circondariale di Pesaro, Villa Fastigi, così si chiama, qualche giorno fa, sembra due giorni fa, tre giorni fa, non è ancora preciso il fatto, perché la situazione è abbastanza complessa, probabilmente non è sicuro, perlomeno gli amici di questo ragazzo non sono convinti che sia stato un suicidio. Nel carcere di Pesaro da parecchio tempo che succedono molti suicidi, molte pestaggi, cose che sono andate che hanno avuto anche procedimenti di carattere penale contro agenti, c'era poi ovviamente finito in nulla. Comunque il fatto è questo, lo leggiamo, è uscito su un giornaletto locale di Pesaro che si chiama La Prima Pagina, è uscito il 28 settembre. L'uomo è un ragazzo marocchino. L'uomo si è impiccato nella sua cella, dice questo giornale locale. Si tratta di un detenuto di origine maghrebina che, dopo il rientro da un altro istituto, ove era stato sottoposto ad un breve periodo di osservazione, rimane sul generico, è stata un'osservazione psichiatrica. Un ragazzo che purtroppo l'intervento della polizia penitenziaria, anche nel tentativo di rianimarlo, non ha potuto impedire la morte. E comunque, questo, due parole, tra l'altro questo giornaletto locale di Pesaro porta le parole di una polizia penitenziaria, il segretario dell'OSAP, che è un sindacato corporativo di polizia penitenziaria, che a cui è riscritto questo i secondini, diciamo, le guardie penitenziarie operanti nel carcere di Pesaro. Il problema è che quindi loro chiedono, la polizia penitenziaria chiede maggiori presenze di polizia penitenziaria nelle carceri, però fa anche un discorso che dice, lo dice un poliziotto in Italia, un secondino, attenzione, dice: è necessario un ripensamento complessivo della funzione della pena e al suo interno, un attimo anche qui, della pena e al suo interno del ruolo del carcere. Parole di un secondino, dice così, perché quello del suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, affievolendo progetti e speranze dei reclusi. Queste parole di un secondino, che dice quindi bisognerebbe riconsiderare. Perché? Perché questo ragazzo che dicono che si è tolto la vita, ma ovviamente poi la cosa pare che sia più complessa, era dentro pensate per che cosa? Per resistenza alla forza a pubblico ufficiale, un reato che non prevede il carcere, quindi prima domanda: come mai sta in carcere? Resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni, questi sono i reati di cui questo ragazzo si era reso tra virgolette colpevole. False attestazioni, cioè aveva detto: mi chiamo Vinco Pallino invece di Vinco Paolo, e resistenza a pubblico ufficiale. Questi due cosiddetti crimini non prevedono il carcere, ma stava in carcere per un anno, era stato condannato ad un anno di reclusione. Inoltre, la reclusione ci può stare, non vogliamo conoscere il processo, cioè dal punto di vista di quello che delle leggi in vigore in questo paese, uno può essere anche condannato a un anno per queste stupidaggini, resistenza, false attestazioni, però non prevede il carcere. Queste cose si scontano nel proprio domicilio, in arresti domiciliari, in detenzione domiciliare, in altre situazioni, in prova comunque. E come mai invece questo ragazzo era in carcere? Prima domanda. E la domanda che si fanno questa è anche il come è stato trattato questo. Intanto molti dicono questo ragazzo che si chiama Eneas, dicono i suoi amici, perché finora abbiamo letto la stampa, tra l'altro sarebbe uscito nel mese di aprile, oppure era in corso la decisione della magistratura di sorveglianza che, se avesse celebrato l'udienza del tribunale di sorveglianza, l'avrebbe potuto mandare da un giorno all'altro alle misure alternative. Quindi era una persona che, anche stante le leggi attuali, non doveva stare in carcere. E veniva dal carcere di Ascoli, e dove era stato sottoposto a controlli psichiatrici, e difatti era stato dimesso dalla sezione psichiatrica del carcere di Ascoli. Che cosa dicono i suoi amici? Dicono: questo nostro amico si è suicidato in carcere, ma questo fatto è molto dubbio. Allora, il carcere di Pesaro, ricordano questi amici di Eneas, questo ragazzo magrebino che si è suicidato, il carcere di Pesaro di Villa Fastigi, è un carcere che ha un alto numero di suicidi, ci sono stati frequenti pestaggi e rivolte. Questo nostro amico era già stato trasferito da due carceri, prima da Urbino e poi da Ascoli Piceno. etichettato come tossicodipendente è problematico, ma queste sono tutte calunnie, non era né tossicodipendente né problematico. Tuttavia il fatto che aveva fatto resistenza alla, vedete come si legano le due vicende, il carcere e il controllo psichiatrico, cioè carcere manicomio che poi è stato abolito, però poi è rimasto il manicomio criminale chiamato OPG, poi adesso dovrebbe essere stato abolito anche l'OPG, però poi 226 persone stanno ancora negli OPG e quindi poi torneremo su quella vicenda, dovrebbero diventare REMS. Insomma, il controllo psichiatrico e il controllo del corpo del detenuto sono i due elementi che la congiunzione, il binomio del controllo totale, perché il controllo psichiatrico controlla il pensiero, il controllo carcerario, il controllo penale controlla il movimento, quindi il corpo e la mente entrambi vengono sottoposti a controllo e il controllo diventa totale, totale come quello che esisteva nei regimi cosiddetti totalitari, appunto. Esiste ancora nei regimi totalitari, quindi, ma anche qui, pur se diviso in due tronconi, controllo penale da una parte che impedisce al corpo di muoversi, di fare alcunché, dall'altra parte il controllo psichiatrico che impedisce al pensiero di pensare alcunché, queste due cose congiunte, e spesso si congiungono nella stessa persona, perché questo ragazzo, tra l'altro un ragazzo che secondo il linguaggio loro dei grandi soloni della giustizia non aveva fatto niente, dicono che era tossicodipendente, lui lo escludeva e i suoi amici lo escludono, aveva dato in escandescenza quando era stato fermato, ma chi non lo fa, no? Certo, quindi resistenza al pubblico ufficiale che non prevede il carcere, però lui in carcere, false attestazioni, cioè probabilmente aveva detto di chiamarsi in un altro modo, non sono reati da carcere, sono, anche se volete chiamarli col loro linguaggio, reati però che prevedono misure alternative. Difatti stava in carcere, ma perché era stato sottoposto a controllo psichiatrico, cioè uno che quando viene fermato non fa un sorriso e dice grazie che mi avete fermato, no? Ecco, cioè, che cosa abbastanza ridicola, però loro vorrebbero queste cose qui, no? Come racconta la letteratura diciamo di un secolo fa, quando un ragazzo, una ragazza veniva picchiato dal proprio padre, poi gli doveva baciare la mano che gli aveva spaccato la faccia. Questa è la cultura da cui non siamo riusciti ad uscire, nonostante che invece poi a chiacchiere si dice che sia il contrario. Bene, a volte dicevo il controllo penale, il controllo psichiatrico si uniscono nella stessa persona, e questo è il caso portato alla morte, un ragazzo certo magrebino, quindi questa cosa già è un aggravante, che aveva fatto semplicemente resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni. Non sono reati, non sono reati di allarme sociale, non sono niente, sono semplicemente diciamo, potrebbero essere chiamati reati amministrativi, che non penali, perché non c'è niente di penale lì. Vabbè, insomma, quindi poi etichettato come tossicodipendente, come problematico, buttato in carcere, prima a Urbino, poi ad Ascoli Piceno e nella sezione psichiatrica, poi portato a Pesaro e quindi... poi è morto, ed è morto, ecco qua, improvvisamente. Allora, dicono i suoi amici che l'autopsia ci dovrebbe stare e ci sarebbe dovuta stare oggi. Sono riusciti tramite un po' di pressione a ottenere un medico legale di fiducia che insieme al medico, diciamo, d'ufficio controlli l'autopsia, perché non sono convinti che si sia suicidato, e anche hanno messo un avvocato che ha seguito vari casi diciamo di mala polizia, per chiamarli così un po' scherzandoci sopra, ma non è il caso di scherzare, quelli che hanno seguito Cucchi e Aldovrandi. Insomma, i suoi amici vogliono che la cosa non svanisca nel nulla e che venga fuori almeno la chiarezza, la verità su questa morte assurda, criminale, che tutte le morti sono criminali in carcere, ma questa cosa qui, una persona che non doveva stare in carcere, che è stata addirittura passata tra il controllo psichiatrico e la detenzione in una cella, ecco, e che l'ha portato alla morte, è un assassino che grida vendetta. Ora, non è un problema di fare inchieste, di fare sollevare perché qualcuno vada in carcere, qui non è un problema che ci sia una mela marcia da mandare in carcere, questo chiarisce ancora di più di altri come sia tutto il sistema, ma così anche nel Casucchi non c'è un responsabile più cattivo degli altri. Poi qualcuno la mano ce l'ha messa sul viso di quella persona, però è tutto il sistema che ha ucciso questo Eneas, questo ragazzo magrebino, e così come tutti gli altri, Cucchi, Addovranti, eccetera. È un sistema che va fermato, va interrotto, va cambiato. Comunque seguiremo ancora la vicenda di Eneas, di questo ragazzo morto nel carcere di Pesaro. Anzi, se qualche compagno o compagna o persona che ascolta questa radio, questa trasmissione, e conosce persone di Pesaro, compagni di Pesaro, che le attivi, perché c'è da fare molto per evitare che venga messa anche qui una pietra tombale sulla morte di questo ragazzo, che invece si faccia luce per tirar fuori quali sono le cose vergognose successe per la morte di Eneas. Girls, they're all over this world. Ah! Like to look at you. I'm gonna tell you about girls. They're all over this world. Some have beautiful shapes. I wanna live to be 98. Yeah, somebody to talk to, and I like to look at you. Yeah, somebody to talk to, and I love to look at you. 'Cause you're a real fine girl. Last weekend in Paris, I was hanging down with Susie. That crazy French magazine, she would turn me backwards to a new scene. 'Cause she was somebody to talk to and to tell my troubles to. She was somebody that's so fine, worth my looking into. She's a beautiful girl, girl, girl. Di nuovo in diretta, 15:18. Parlavamo, mettevamo sullo stesso piano, cioè come interagenti l'un con l'altro, il controllo penale e il controllo psichiatrico. E difatti, quindi, passiamo subito agli OPG, che secondo la legge italiana, il 31 marzo scorso di quest'anno, quindi parecchi mesi fa, dovevano essere chiusi, e le persone lì dentro, recluse dentro gli OPG, dovevano essere trasferiti in delle REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Diverse, questo nella stesura della legge, poi vedremo se nel concreto saranno diverse, ma molto diverse, perché mentre l'OPG le persone interne all'OPG erano, l'OPG era una struttura del Ministero della Giustizia, quindi simile alle carceri, con la polizia penitenziaria intorno, con le sbarre, con le regole, diciamo, di un carcere, di un istituto di reclusione, con appunto dipendeva dalla era un carcere per persone malate di mente, dicevano loro. Va bene, invece la REMS cambierebbe completamente struttura, non dovrebbe avere le guardie, la polizia penitenziaria intorno, è più un ospedale che non un carcere per malati di mente. Questo sarebbe un ospedale, difatti dovrebbe dipendere dal Ministero della Sanità, non dal Ministero della Giustizia, quindi dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria come gli OPG. Quindi il cambiamento dovrebbe essere sostanziale, perlomeno come lo dice la legge. Vedremo poi che cosa faranno, ma intanto, nonostante sono passati più di 6 mesi, ancora parecchie persone sono ancora internate negli OPG, cioè questo lavoro non è stato fatto di costruire le REMS, nonostante la legge da due anni, ormai sono 3 anni che era stata fatta, poi rinviata all'esecuzione, però la legge c'era, quindi le regioni dovevano attivarsi per costruire questi istituti REMS, no? queste residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e quindi quando la legge scattava il 31 marzo scorso dovevano trasferire queste persone, non è stato fatto. Ne sono ancora 226 internati dentro gli OPG. Questo quando poi qualche imbecille, perché così va chiamato, parla tanto di Osanna Faglini alla legalità e dice che sono soltanto i cattivi, quelli che non la rispettano. Non è vero, in primo luogo sono le istituzioni che non rispettano le leggi che loro stesse fanno. Questa è la cosa di questo paese, la cosa principale, non chi viola la legge della proprietà privata e per esempio fa un furto, un'appropriazione indebita, quello è minimo. La maggior illegalità è quella delle istituzioni che non rispettano le leggi che loro stessi hanno fatto, perché questa legge dell'abolizione dell'OPG l'ha fatta il Parlamento italiano, l'ha firmata il Presidente della Repubblica di allora, l'hanno approvata i parlamentari, è stata eseguita, e che però non è riuscita. 226 ancora ristretti, di cui 109 hanno fatto un ricorso per detenzione illegittima. Di questa vicenda si è interessato l'associazione Altro Diritto, che è andata in giro per questi OPG, no? Per vedere le persone che ci stanno dentro, e gli ha proposto: volete fare ricorso per detenzione illegittima? E molti l'hanno firmato, gli hanno portato la carta per come si faceva, hanno letto, hanno capito, perché questo dimostra che sono persone molto sensibili, intelligenti, più di quelli che fanno la legge e poi non la rispettano, questo è chiaro. E dunque 109 è il gruppo di persone internati che dagli ospedali psichiatrici giudiziari sta dichiarando guerra allo Stato, questo è l'articolo che leggiamo. L'ultima ondata di ricorsi è arrivata all'OPG di Reggio Emilia. A Reggio Emilia era un piccolo ospedale psichiatrico giudiziario dove c'erano 27 reclusi, ve ne sono rimaste 24, quindi come vedete quasi tutti, e tutti questi 24 hanno fatto l'istanza per detenzione illegittima, cioè sequestro di persona. Cioè questo ricorso che hanno fatto prevede due reati da parte delle istituzioni, regione e Stato. La prima, di non aver rispettato una legge. La legge diceva che il 31 marzo scorso dovevano essere portati fuori tutte le persone recluse negli OPG, e questo non è stato fatto, quindi inadempienza della legge. Però sono stati mantenuti dentro, chiusi in una struttura, cioè non potevano muoversi liberamente, quindi si chiama... questo è un sequestro di persona, quindi i reati sono gravi. Difatti, pressoché la totalità dell'istituto, cioè 24 su 27, commenta Emilio Santoro, presidente dell'associazione dell'Altro Diritto, se si considera che i pazienti in totale sono appunto 27 e che il giorno del nostro ingresso un internato era in ospedale e solo due persone, 2 su 26, non hanno voluto sottoscrivere le istanze. Quindi c'è stato un dibattito. ne hanno discusso le cosiddette persone malate di mente, dimostrando una incapacità, un'intelligenza tale, una ragione tale per capire quello che erano i loro diritti negati e quindi la necessità di ricorrere e fare questa denuncia. E ora vedremo che cosa succederà, insomma, no? E intanto altri 58 ricorsi sempre l'associazione Altro Diritto l'ha raccolti all'OPG di Montelupo Fiorentino, altri 27 da quello di Barcellona Pozzo di Gotto vicino Messina, e quindi così, e 24 a Reggio Emilia, in tutto sono 109, ma ancora dovranno fare un giro ad Aversa e a Napoli perché raggiungere tutta la quota dei 226 internati ancora internati e vedere quanti vogliono fare questo ricorso. Dal 1 aprile, dice appunto Santoro, quindi la legge era stata fatta, dice, il 31 marzo gli OPG vanno chiusi, quindi dal 1 aprile nessuno doveva più essere internato e ristretto nell'OPG, bensì nelle REMS, che sono però non luoghi di internamento, ma luoghi dove, queste residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove il cambio non è forma, non è che da una casa di reclusione a un'altra, perché nelle REMS non sono recluse quelle persone che ci vanno dentro, questo era il cambiamento. In più non sono strutture rette dall'amministrazione penitenziaria, ma sono non carceri travestiti da ospedali, dice Santoro, ma ospedali in senso proprio. Difatti dipendono le REMS, quando le faranno, dipendono dal Ministero della Sanità, non ci dovranno essere guardie né di un tipo né di un altro. Ecco, quindi secondo Emilio Santoro c'è la violazione dell'articolo 13 della Costituzione, questo fatto è evidente ed è molto preoccupante, e quindi continuano questa loro battaglia. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e Reggio Emilia, Francesco Maisto, dice che pure lui, diciamo, in qualche modo si batte perché finisca questa mostruosità degli OPG. Dice: quello di Reggio Emilia è l'OPG più piccolo d'Italia, nel senso che ospita il numero di internati minori rispetto alle altre strutture. La percentuale delle istanze è notevole, 24 su 27, se si considera il totale della popolazione. Come capo dell'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e Reggio Emilia, provvederò ad assegnare subito i casi ai magistrati competenti, perché la denuncia c'è in corso e quindi si tratta di mettere in moto la macchina, diciamo, accusatoria, verso individuare i responsabili di chi è il responsabile. Qui sarà un bel gioco trovare responsabile. La regione che non ha fatto le REMS probabilmente è questa, questo incontro tra i responsabili dell'OPG e della regione, che devono trovare comunque una sistemazione alternativa anche provvisoria, insomma questo è il pubblico ministero, dovranno trovare i responsabili di questo sequestro di persona. E quindi vi spiega tutte le cose, l'articolo racconta, adesso il magistrato dovrà appunto instaurare un vero e proprio procedimento e trovare, perché il responsabile nominato, cioè l'accusato, è lo Stato, questo lo dice Francesco Maisto, che è un magistrato, l'accusato è lo Stato, però dello Stato bisogna individuare le figure, cioè la struttura specifica che risulta colpevole di questa reclusione illegale, illegittima di queste finora 109 persone che hanno fatto ricorso. E poi si tratta di trovare anche l'ufficio e la persona, perché come sapete formalmente in questi sistemi giudiziari, non solo italiano, europeo, in gran parte del mondo, la responsabilità è personale, così è scritto nelle leggi, così è scritto nella Costituzione, così è scritto nei principi del diritto. Però non vale quando, per esempio, si usano ancora le norme dei reati associativi. I reati associativi, che cozzano contro questo principio del fatto che la responsabilità penale è personale, cioè se io rompo una vetrina sono io responsabile, non tutti gli amici con cui sono stato a bere un bicchiere prima, ad esempio, no? Ecco, però non è così nella realtà italiana e di gran parte dell'Europa, nel senso che i reati associativi stanno di nuovo prendendo piede, non sono stati abrogati quando c'è stato il passaggio dal periodo fascista a quello cosiddetto repubblicano democratico, sono rimasti però inattivi per molto tempo perché si vergognavano un po' di utilizzare dei principi che sono tra l'altro totalmente illiberali e che anche erano, diciamo, il portato del regime fascista. Ma adesso dagli anni 70 hanno ripreso a usarli in grande stile, i reati associativi. Però comunque qui il problema, l'accusato è lo Stato, infatti verrà difesa dall'avvocatura dello Stato e l'amministrazione penitenziaria come primo, diciamo, scrematura, lo Stato in generale, l'amministrazione penitenziaria che è responsabile degli OPG come ufficio vero e proprio, poi lì si tratta di trovare i responsabili che non hanno liberato queste 226 persone dall'OPG dal momento che una legge, quella appunto che imponeva che dal 31 marzo scorso andassero liberati, per portarli in un'altra situazione che non è di reclusione, non dovrebbe essere così, dice della legge di reclusione, la REMS, ma di appunto esecuzione di misure della pericolosità sociale. Comunque qui la legge 81 è quella che ha deciso di chiudere gli OPG. C'è un ritardo alla fine, dice Emilio Santoro, un ritardo non solo da parte delle regioni che dovevano costruire le REMS, ma anche a livello di amministrazione centrale, nel senso che la legge 81, quella che appunto ha indicato dei termini precisi di abbandono degli OPG, cioè il 31 marzo, sono stati abbondantemente superati, gli aveva dato anche dei tempi, perché ricordate che la legge di chiusura degli APG è di due anni e mezzo fa, poi è stata, siccome le regioni dicevano non siamo pronte, allora hanno dato una prima proroga di un anno, poi un'altra proroga di un altro anno e sono due, adesso è passato i due anni di proroghe e anche da marzo ad oggi è altro mezzo anno, in due anni e mezzo, insomma, come proroghe mi pare abbastanza. Quindi dice Emilio Santoro, non è solo una questione organizzativa ma di tutela del diritto alla salute, perché le REMS non sono semplici alternative all'OPG ma realtà completamente diverse. Noi aggiungiamo dovrebbero essere, perché così è scritto, ma dovremmo vedere quando funzionano. Siccome in Italia tra quello che si scrive e quello che poi si mette in pratica corre sempre una certa differenza notevole, vorremmo vederlo, però è chiaro, la legge dice che devono essere completamente diverse. Dalla legge vengono qualificate, dice appunto Emilio Santoro, aggiunge questa cosa perché anche lui pensa così, poi da magistrato dice che dovrebbero essere diverse, non dice il condizionale, devono essere diverse, dice dalla legge vengono qualificate come strutture sanitarie e non sono comunque la sola alternativa. L'obiettivo è sempre il programma terapeutico individualizzato e, dove possibile, il ricovero in vista di una sistemazione futura in una famiglia o in una comunità protetta e così via. Quindi spiega un po' che cosa dovrebbero essere le REMS. Completamente diversa dall'OPG, che è una struttura di reclusione, era un carcere, come dicono, abbiamo detto anche noi, come dicono tutti quelli che hanno criticato il manicomio criminale, erano delle carceri travestite da ospedale. Life could be Swedish magazines. Allora, 15:34. Allora, c'è stata una ricerca fatta in comune tra l'Eurispes e l'Unione Camere Penali, e cioè l'Unione Camere Penali sapete che è l'associazione che riunisce tutti gli avvocati, i difensori, insieme hanno fatto questa ricerca perché da un po' di tempo stanno uscendo fuori, cioè pensate un po', la cosa è venuta fuori perché ha fatto un rilievo la Corte dei Conti al fatto che il pagamento per ingiusta detenzione è troppo alto, cioè nel senso, quindi loro si occupano dei soldi, dei conti, non la Corte dei Conti, e ha visto che il Ministero della Giustizia spende troppo per detenzione illecita, cioè persone innocenti tenute in galera. Quindi vuol dire che erano alti i numeri, quindi hanno cominciato a fare venuti fuori i numeri per anni, per semestri eccetera. Adesso la ricerca fatta da Eurispes e Unione Camere Penali è stata portata un po' più su un ampio raggio. Dal 1965, quindi negli ultimi 50 anni, indovinate un po' quante persone innocenti sono state buttate in galera. Dai, vi lasciamo qualche secondo per fare la scommessa tra di voi. In 50 anni, dal 1965 ad oggi, quante persone sono state incarcerate ed erano risultate poi innocenti, ufficialmente risultate innocenti, non perché gli amici lo dicevano, ma proprio la magistratura ha deciso che erano innocenti. Indovinate quante in 50 anni, su, contiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5, sono 4 milioni di persone. 4 milioni di persone innocenti sono state buttate in carcere negli ultimi 50 anni, quindi potete fare la divisione per anno, dividete 4 milioni per 50, ma adesso a me non mi va di fare le divisioni, ma è facile farlo, poi sui computer, del computer ci stanno la calcolatrice, ma anche sul telefonino, insomma fate questa divisione, potete fare anche quella per giorno, insomma comunque sono troppi, 4 milioni di persone. È una quantità di persone più grandi, credo, come la regione Lombardia, no? È abbastanza grosse, 4 milioni di persone buttate in carcere. E non si sa ancora, bisognerebbe vedere esattamente, proveremo la prossima volta a vedere questa ricerca, che quanto tempo ci sono stati, perché è importante, non perché se ci stai 3 giorni è poco, ma perché la quantità di giorni poi è quantità di sofferenza. Comunque intanto il numero è spaventoso, 4 milioni di persone innocenti buttate in carcere. Le accuse, false rivelazioni, indagini sbagliate, scambi di persona, e così decine di innocenti, dopo essere stati condannati al carcere, diventano vittime di ingiusta detenzione. Errori giudiziari che non sono segnalano, vabbè, la pesante profonda che hanno segnato profondamente la loro vita, ma che costano allo Stato, perché la cosa è partita dai soldi. Questa società, ma è purtroppo la cultura dominante, e come diceva qualcuno di importante, per esempio Antonio Gramsci, la cultura dominante non è la sola cultura esistente, ovviamente ve ne sono tante altre che viaggiano sotto, ma comunque la cultura dominante tocca tutti noi, tutti e tutte noi, che piaccia o non ci piaccia, certo in misura diversa, però un po' sfiora e tocca tutti noi. Quindi oggi la cultura dominante, come lo vediamo anche da questo caso, ma da tutti gli altri casi, è quella del denaro, del soldo, e quella tocca tutti. Il problema dell'ingiusta detenzione è venuto fuori perché qualcuno ha detto lo Stato, quindi il Ministero della Giustizia, spende troppi soldi in questa voce strana, che cos'è? Ingiuste carcerazioni, ingiusta detenzione. Ma dice, allora evidentemente se il costo era alto vuol dire che erano tante le ingiuste detenzioni, e man mano è venuto fuori il problema. E questo è la situazione. Allora vediamo un po' che alcuni dati. Dunque, quanto spende l'Italia per l'ingiusta detenzione? La legge prevede che vengano risarcite anche quei cittadini che sono stati ingiustamente detenuti, e vorrei vedere che non fosse così, anche solo nella fase di custodia cautelare, sempre carcere, e poi assolti magari con formula piena. Questo è strano, che questa si chiama Romina Rosalia, questa che ci racconta di questa ricerca. Che strano che si stupisca, è normale, la legge deve per forza prevedere che persone messe in carcere e poi risultate assolte con formula piena, quel carcere è in giusta detenzione e deve essere risarcito, anche se in custodia cautelare. Custodia cautelare è quella che ti mettono in carcere prima del processo. Nel 2014, l'anno appena passato, sono state accolte 995 domande di risarcimento per 35,2 milioni di euro, 35,2 milioni di euro, con un incremento del 41%, quindi molto incremento grosso, dei pagamenti rispetto all'anno prima, cioè al 2013. Quindi vedete che la cosa non si sta affievolendo, dice vabbè era un problema prima, giustizia. No, è proprio di questi ultimi anni. Se adesso non l'abbiamo qui, ma se ricercando troveremo anche il grafico di questo, l'andamento di queste carcerazioni di innocenti, vedremo che hanno un andamento ondivago. In alcuni momenti si impenna perché la gente viene buttata dentro in carcere perché la cultura nazionale è incarcerare tutti, come adesso, come qualche anno fa. Da qualche anno è venuta la mania, peggio della lebbra, peggio del colera, questo è peggio del colera, questa logica forcaiola, manettara, cioè di buttare tutti in galera. Basta sentire la gran parte dei deputati, delle persone che calcano, che sporcano le sedi del Parlamento mettendoci seduti sopra. Ebbene, queste persone dicono continuamente mandiamo tutti in galera, e in realtà infatti l'incremento dal 2013 al 2014 di persone ingiustamente detenute, il numero non ce lo dice, ma ci dice che i pagamenti sono stati il 41% superiori, cioè dal 2013 al 2014 è stato un incremento superiore. Capite? Allora, poi alcuni dati: 35 milioni di euro l'anno ha pagato l'anno in un anno, però dal 91 al 2012, quindi in 10 anni, lo Stato ha speso 580 milioni di euro per 23.226 cittadini ingiustamente detenuti. Quindi vedete, qui nell'articolo prende alcune fasce, eccetera. E insomma, per ora, ecco, in pole position, cioè l'anno in cui si hanno un maggior numero di detenuti innocenti, persone innocenti buttate in carcere, è il 2014. Per cui, come vedete, è recente, non era una cosa del passato, prima le cose non funzionavano. No, è proprio, è chiaro, la mania forcaiola, che prima era di alcune forze politiche, no? C'è sempre stato in Italia alcuni gruppi, l'estrema destra, alcune persone un po' qualunquiste, un po' stupide, che cercavano di raccattare voti lavorando sulla paura delle persone. Ah, qui ci stanno i ladri che vi rubano tutto, le vostre proprietà, come se poi, e incrementando questa paura raccoglievano voti e quindi dicevano buttiamo tutti in galera. Poi questa logica manettara, si chiama così, o forcaiola, come volete voi, si sta allargando dall'estrema destra, è arrivata alla destra, al centro ed anche alla sinistra. Quindi oggi tutto il Parlamento italiano pressoché oscilla ogni tanto su qualche pic particolare, ma è tutto manettaro. E difatti c'è stata una crescita negli ultimi anni. Negli anni che seguono, dal 2010 ad oggi, di persone ingiustamente detenute. Nel 2014 c'è stato il record, il maggior numero di persone, il maggior numero di risarcimenti ha dovuto fare. E dunque, poi le città maggiori, vedete un po', pensate quali sono le città maggiori che hanno avuto persone ingiustamente detenute. Catanzaro la prima, seconda Napoli e poi avanti, quindi non ce ne dice altre. Questa cosa è uscita da adesso, ieri c'era il 29, è uscita questa, perlomeno la notizia di questa ricerca, i primi dati, quindi non abbiamo ancora tutto il quadro, ma lo troveremo e vi racconteremo, ci faremo. È triste ridere sulle disgrazie delle persone, perché qui c'è gente che ha sofferto, molti saranno state segnate pressoché totalmente, no? C'è il caso che ricorda il caso Tortora, e così, insomma, e tanti i cosiddetti errori giudiziari. Ma non è tanto un problema di errore giudiziario, si chiamano così, oppure il caso ancora più di Giuseppe Gullotta, quell'uomo tenuto in galera per 21 anni, 2 mesi e 15 giorni, tenuto in carcere per 21 anni, 2 mesi e 15 giorni, con l'accusa di aver ucciso 2 carabinieri, che invece non era vero assolutamente, era stata estorta la confessione a lui e ai suoi, diciamo, cosiddetti complici con la tortura. Un brigadiere che aveva assistito alle torture cui il Gullotta e i suoi amici erano stati sottoposti e che li aveva indotti a confessare, anche lui, come i torturatori di Stato, punto di morte, vogliono pulirsi l'anima, e ha confessato, e quindi questo Giuseppe Gullotta, dopo 21 anni, 2 mesi e 15 giorni di carcere, è uscito. Come fai a ridare una vita a una persona che gli è stata tolta? Comunque, questo è il problema. Altro caso paradossale, vabbè, questa donna Maria Columbo, di 40 anni, sarda, invalida, madre di 4 bambini, è stata condannata con l'accusa di eversione per dei messaggi goliardici diffusi in rete, nei quali insegnava a costruire una bomba atomica fatta in casa. Ovviamente era uno scherzo, una bufala, però fu condannata. Poi nel 2010 fu assolta con formula piena, ma intanto si fece del carcere, e così tanti casi, qui mette tanti casi di cosiddetta mala giustizia, ma qui più che mala giustizia, sì, chiamatela pure così, è un modo sbagliato di procedere, perché intanto c'è il fatto che quando succede la responsabilità molta è anche della stampa, quando succede un fatto grave, eclatante, un delitto, anche un furto, si dice che la serie dei furti si incrementano, poi non è vero, però insomma lo dicono i giornali per vendere copie, a un certo punto si chiede con forza alla polizia di tirar fuori i colpevoli, e quindi la polizia e la magistratura, stretti dall'opinione, cosiddetta opinione pubblica, cioè dai giornali e dai media, prendono appunto con le buone maniere, sanno far confessare persone che non c'entrano niente. E per fortuna poi, dopo, qualcuno si pente di loro, degli torturatori, si pente e viene fuori la verità. Ma pensate quanti altri casi ancora ci sono di detenuti illegittimi, di cui appunto non è venuta fuori la storia. Let's see you go, go, go, go, give up. Let's see you go, go, go, go, give up. Let's see you go, go, go, go, give up. Go, go, go, go, give up. Allora, 15:49 ancora. Passiamo a quel punto in cui stiamo cercando di capire quali sono gli orientamenti da qui in avanti, quindi per il prossimo futuro della repressione. Loro chiamano della giustizia, ma insomma della repressione del cosiddetto disordine sociale e del conflitto sociale. Entrambi vengono repressi, sapete, ad esempio Eddie l'altro ieri la notizia che vietano i cortei, quindi che se uno lo fa rischia appunto il corteo non autorizzato, quindi una denuncia con penale e così via, e tante altre cose. Poi non, anche il disordine sociale, che sarebbe appunto lo sviluppo di questioni non ordinate, per esempio il furto, per esempio i schiamazzi notturni, cose di questo tipo qua. Va bene, insomma, si stanno muovendo sta cambiando la struttura, anche perché l'abbiamo detto più volte, il carcere costa troppo, è una questione non solo italiana ma di tutto l'Occidente, perlomeno l'Occidente su questo ormai ha un discorso chiaro. Alcuni paesi già si sono avviati, considerate che paesi del nord Europa hanno già ridotto di molto le presenze in carcere e ampliato di molto le misure alternative. Su variti sono tante le misure alternative che ci stanno: alla prova, sulla parola, lavori di pubblica utilità, c'è anche scontare la pena a casa, che è come la detenzione domiciliare, anche se è un po' diversa, e insomma tante forme diverse di esercitare il controllo penale, non in carcere ma laddove vivi. Questo si sta orientando, e su questo il ministro Andrea Orlando, il ministro della giustizia, ha fatto un altro ha tirato fuori un'altra carta, perché stanno lavorando a questa cosa, a questa modifica, al cambiamento. Allora, intervenendo al convegno della conferenza nazionale della Cassa Forense, appunto quella degli avvocati, della Cassa Forense, che è la Cassa degli Avvocati, ha detto: siete tantissimi, sono gli avvocati in Italia, sono 246.000, un esercito. Dice però il problema è che sarebbe importante trovare, e stiamo impegnando, si anche ha detto, di trovare per voi aree di impiego utili, e propone il problema della mediazione, ossia che è cosa che già c'è in molti paesi. La mediazione, che è un compito che dovrebbero svolgere gli avvocati che attualmente difendono il detenuto quando va al processo, la mediazione dovrebbe essere qualcosa che prende, cioè succede un fatto, un furto, una rapina, altra cosa così, gruppi di avvocati sono organizzati in altri posti, e qui andranno organizzati, che mettono insieme diciamo il colpevole e la vittima, il ladro e il derubato, per esempio, no? Li mettono insieme e cercano di trovare una mediazione perché si risolva in una situazione non penale questo dissidio tra queste due persone, con la restituzione, il rimborso, una serie di questioni che appunto in altri paesi ci sta, ogni paese c'è il suo, molti paesi l'hanno già avviato, e insomma, e quindi ha proposto agli avvocati di lanciare questo discorso, questa attività. Ha detto che è pronto, ci sarà un decreto la prossima settimana, quindi i primi di ottobre ci dovrà, ha detto Orlando, ci sarà un decreto con incentivi alla mediazione assistita. Sarebbe questa che dicevo adesso, la mediazione assistita, cioè trovare forme di mediazione tra chi ha ricevuto diciamo un qualcosa e l'autore di questo qualcosa, no? Appunto, per fare l'esempio, no? Tra ladro e derubato, e questa mediazione dovrebbe impegnare appunto gli avvocati portare il fatto, quel fatto che è successo, in quel caso il furto, fuori dal sistema penale, mettere d'accordo i due con delle forme che si devono. Sto studiando come appunto gli ottuagenari della magistratura onoraria possano lasciare spazio ai giovani. Vabbè. E poi dice anche che per accontentare gli avvocati, ha detto: per la prima volta in Italia il ruolo di vice capo dell'ufficio legislativo, ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, sarà affidato a un avvocato, non a un magistrato. E quindi, vabbè, ha detto però la cosa, questo discorso della mediazione è importante, ma non ci interessa questo, sono tutte le cose che ha detto lì, poi, perché sta dentro quella riforma, quella modificazione che avverrà, non ci stanno anche forze che remano contro, c'è tutto in Italia, situazioni corporative, interessi, impicci, imbrogli, molti vogliono lasciare la situazione così, con carcere che assorbe persone, che costa tantissimo, che distrugge le vite, invece l'ambito delle misure alternative è ristretto, molti vogliono lasciare le cose così, altri però vogliono modificarla. E poi ho detto, per esempio, in Nord Europa la cosa è già sviluppata al massimo, ultimamente sono arrivati anche Francia e Inghilterra che hanno sviluppato molto questo. Pensate, in Inghilterra, a fronte di 50.000 persone in carcere, 50-53, intorno quasi come noi, che sta su 53.000 in Italia, ve ne sono 270.000 in misura alternativa. In Inghilterra, in Italia, a fronte di 53.000 in carcere, ve ne sono nemmeno 30.000 in misura alternativa. Quindi vedete la differenza. Ecco, si tratta di votare un bacino, quello del carcere che si chiama controllo penale intramurario in carcere, e a portarlo a controllo penale esterno. Questo serve a tanti motivi, quindi è una tendenza, è sicura che avverrà. Poi ci saranno controtendenze, resistenze di chi, appunto, delle strutture corporative e altro, però anche di questa logica manettara che diciamo prima, però questa tendenza è sicura che avverrà, perché i motivi sono due sostanzialmente fondamentali. Uno, che il carcere costa troppo, non raggiunge nessun obiettivo, perché la recidiva, cioè chi esce dal carcere e torna a fare quello che faceva prima, per quello per il quale c'è entrato, sia a fare reati, sono circa il 70%, quindi talmente alta che il gioco non vale la candela. Distrugge le persone, ma non ma il secondo obiettivo ancora più importante è quello che si sono resi conto, ma questo da tempo, il carcere non permette di esercitare un controllo sugli ambienti dove maturano le attività che loro chiamano illecite, che siano esse di carattere, appunto, per quello che chiamano disordini sociali, cioè furti, rapine, spacce e cose, e anche di quelle che producono il conflitto sociale, che anche loro non vogliono, perché cambia gli interessi, no? E quindi queste due cose vanno colpite, disordine sociale e conflitto sociale, vanno colpiti in maniera diversa, ma vanno colpiti entrambi, perché modificano l'ordine esistente, i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Siccome questa cosa è lo Stato, serve a mantenere i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, questa è la funzione storica dello Stato, non altre, anche se le chiacchiere ce ne stanno tante, ma sono appunto chiacchiere d'austeria. Lo Stato a questo serve, per questo è nato e questo ha fatto, ha sempre fatto e continua a fare. Quelli che pensano che le cose si possono cambiare a quel livello, andando nello Stato, fanno un buco nell'acqua. No, di esempi ce ne stanno talmente tanti che sì, li cominciamo a raccontare e finiamo domani mattina. Quindi il problema è lo Stato, è quello, e continua a fare quello. Il punto è che a loro interessa lo Stato come controllo dell'ordine sociale, riproduzione dell'ordine sociale, interessa portare il controllo laddove può avvenire, no, dove si può maturare la trasgressione di legge, non tanto quindi sul singolo ma sull'ambiente, quindi deve portare il controllo sui territori, il controllo poliziesco va portato sui territori. Tutte queste misure, lo sviluppo delle misure alternative, gli arresti domiciliari, la messa in prova, il lavoro all'esterno, eccetera eccetera, sono tutte, ci sono tantissime, ne stanno, ma ogni paese ce n'ha, i paesi appunto del nord Europa ce n'hanno tantissime, ognuna legata a un certo tipo di reato. Beh, tutte queste cose qui permettono di portare il controllo sul territorio, che è più funzionale allo Stato, perché controlla il sorgere, quindi è un controllo preventivo, controlla gli ambienti sociali e quindi controlla laddove può sorgere l'aggregato che produca o, diciamo, la trasgressione tipo furto, rapina e altro, ma anche e soprattutto il conflitto sociale, di cui ha molta paura, perché in una situazione di malessere che aumenta sempre più, al di là delle chiacchiere che dicono, no, che l'economia riprende, qui non riprende niente, riprende il malessere, quello sì che riprende, e tanto riprende, e quindi in questo, avendo paura di questo così, di questo disordine sociale, di questo aumento del conflitto, il problema qual è? Di aumentare il controllo poliziesco, il controllo, ma va a portare il controllo nei territori, e queste misure alternative gli permettono di fare ciò, per cui il cambiamento avverrà. Questa è una di quelle, anche questo della mediazione sociale è un tentativo, perché si porta il mediatore, che è fatto di avvocati, magistrati, poliziotti, dentro il luogo, il posto dove è avvenuto questo, mette d'accordo con riparazioni varie i due contendenti, diciamo, la vittima e chi ha fatto il reato, però esercita controllo lì dentro, perché in quella mediazione si rendono conto perché quella persona ha fatto quel reato, chi sono, dov'è la, qual è stato l'ambiente dove è nata quella idea di fare quella cosa, e quindi questo problema li porteranno il controllo.